Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Su, Chiara, dai, tira i dadi. Cos'è venuto? Io ho fatto 2, 1, 3. Va bene, ritira ancora. 5 più 3, 8. Allora, mettiamo dentro 8 e 3. Cosa viene fuori? Sentiamo. Aspetta. È carino. Beh, carino, non male. Mi sembra quasi un po' mozartiano. Benvenuti a Möbius. Sentiamo i titoli e poi incominciamo subito. Il gioco musicale di Mozart. Si tiravano i dadi e si componevano minuetti con miliardi di possibili combinazioni. Siamo circondati da controlli automatici, ma non ce ne rendiamo conto. E a Milano, quelli che li progettano, si sono riuniti nel loro 18° congresso mondiale. L'aroma di cacao non esiste perché lo inventa il nostro corpo. È un cocktail di terriccio, pesca, patatine fritte e sudore. Le donne hanno più freddo degli uomini, lo dicono in tanti, ma sarà vero? È la domanda impossibile del nostro ascoltatore Nuccio. Il premio Balzan al cosmologo Joseph Silk è stato premiato per i suoi studi sull'evoluzione dell'universo. Allora, il nostro giochino coi dadi, sì, ci rimanda niente po' di meno che al 1793. E a un personaggino che nella musica ha segnato, esatto, qualche record, che, il signor Mozart. Che prima di giocare a dadi faceva anche altro, vabbè, ma non ci dilunghiamo, sì, su questa canzonette. Descrizione. Sì. Però ha messo a punto un simpatico gioco, questo qui, che adesso però ci facciamo spiegare, direi. Da chi? Come l'abbiamo scovato? L'abbiamo scovato perché spulciando in vari blog scientifici, in questo in particolare si occupa di matematica e di giochi matematici, si chiama mrpalomar.blogspot.com, alias Paolo Alessandrini, che è un ingegnere informatico, e l'abbiamo chiamato qui questa sera. Buonasera Alessandrini. Buonasera Chiara, buonasera Federico. Ciao. Non diamo per scontatissimo il fatto che sappiano tutti cos'è un blog, ma insomma tipicamente un grande appassionato, magari esperto di alcune cose, si costruisce un proprio sito in internet che è molto interattivo, che interagisce con la gente. Beh, la vera diversità è che la gente esterna, estranea anche, può partecipare, esatto, scrivendo dei commenti, eccetera, eccetera. Vabbè, ma dai, un blog lo sanno tutti. Ormai. Va bene, Alessandrini, allora cos'è questa storia di Mozart? Dunque, questa storia di Mozart è una cosa molto curiosa. Nel 1793 venne pubblicato contemporaneamente a Berlino e ad Amsterdam un gioco di dadi musicale realizzato niente meno che da Wolfgang Amadeus Mozart. E si trattava di un vero e proprio generatore automatico di minuetti, una specie di precursore della musica aleatoria del Novecento, delle tecniche moderne di musica algoritmica o combinatoria. Questo gioco ebbe subito un grandissimo successo, al punto che nel giro di pochi anni moltissime case editrici europee lo ristamparono. Ecco, ma com'è che arrivava la gente, Alessandrini? Cioè, i dadi, va bene, uno li aveva. Ecco, questo gioco comprendeva, diciamo, essenzialmente un insieme di battute musicali composte direttamente da Mozart. Va premesso che la forma musicale del minuetto, che era molto popolare a quell'epoca, prevedeva tre parti. La prima parte era tra l'altro uguale anche alla terza ed era il minuetto vero e proprio, mentre la seconda parte, la parte centrale, era detta trio perché originariamente veniva suonata da tre strumenti solisti. Sì, diciamo veniva fuori proprio una bella suonata completa. Sì, veniva fuori proprio un minuetto completo nella sua forma musicale che era standardizzata a quell'epoca. Entrambe le parti di questo minuetto, quindi il minuetto vero e proprio e il trio, erano costituite secondo questo schema standard da 16 battute. E l'idea alla base di questo gioco era che il giocatore poteva comporre sia il minuetto sia il trio determinando ciascuna battuta con il lancio di dadi. Ogni battuta corrispondeva a un lancio di dadi, esattamente come stavano facendo. Ecco, diciamo che venivano scelte a caso le battute, però ovviamente essendoci dietro un rigore sonoro, come dire, poi veniva fuori una bella sonata, cioè era tutto ben studiato. Però uno doveva avere a disposizione una sua orchestrina oppure anche un clavicembalo, per esempio, poteva suonarsela lì. Sì, diciamo che comunque la forma del minuetto era abbastanza semplice, per cui era possibile suonarlo anche con pochi strumenti, o anche con un semplice pianoforte, certo, o con un clavicembalo, appunto. Sì. Non era certamente necessario avere grandi complessi, grandi orchestre. Diciamo che questo gioco, come veniva pubblicato, come era stato pubblicato a quell'epoca, comprendeva, come dicevo prima, un libretto nel quale venivano riportate le battute scritte da Mozart, e precisamente 176 per il minuetto e 96 per il trio. Sì, possiamo immaginarla con un'enorme tabella Excel, adesso con i nostri nuovi metodi, in cui si incrociavano righe e colonne, che appunto erano tutte le combinazioni possibili. Esatto, tutte le combinazioni possibili, e ne venivano fuori veramente... miliardi, eh? Esattamente, perché per quanto riguarda la parte del minuetto, ad esempio, servendosi di due dadi per ogni lancio, quindi per ogni battuta da determinare, sono possibili 11 punteggi possibili. Lanciando due dadi si può ottenere da un minimo di 2 a un massimo di 12. E quindi esisteva per ognuna delle 16 battute da mettere in fila, esistevano 11 possibilità, quindi mettendo in sequenza 16 battute scelte in questo modo si ottiene un numero di combinazioni complessivo che è dato da 11 per 11 per 11 ripetuto 16 volte. Un po' tanto. I matematici chiamano questa moltiplicazione ripetuta elevamento a potenza, e quindi si dice che ci sono 11 elevato alla 16 possibili combinazioni, che è un numero davvero enorme, perché parliamo di 46 milioni di miliardi di minuetti diversi. Troppi. E analogamente per il trio esistevano... Ecco, è ancora, insomma, diciamo che il calcolo, per semplificare, è enorme, vengono fuori 129 miliardi di miliardi di miliardi. Ve l'abbiamo fatto noi. Sentiamone uno. Però, appunto, facciamolo riascoltare e poi ci spiega com'è possibile riascoltarlo adesso. Questo è un po' simile a quello che abbiamo ascoltato prima, però qui abbiamo messo dei numeri diversi, abbiamo messo 12 e 4, è venuto questo. Come li abbiamo messi? Dove li abbiamo messi? Ecco, adesso ce lo spiega sempre Alessandrini. C'è un sito, mi pare, no? Allora, ci sono diversi siti, in particolare uno che è possibile utilizzare proprio per lanciare virtualmente, diciamo elettronicamente i dadi e ascoltare direttamente il risultato finale, andando appunto nel mio blog di Mr. Palomar. Sì, che lo ripetiamo, mrpalomar.blogspot.com, esattamente. Sì. Ok. Il post dedicato al gioco di Mozart contiene anche il link ad uno di questi siti che permettono di realizzare il proprio minuetto nello stile di Mozart. Lasciamoci con un altro minuetto. Arrivederci Alessandrini, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie. Sul nostro sito, ovviamente, www.moebiusonline.eu, potete trovare tutti i contatti per poter provare, accedere al software mozartiano, a questo giochino. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Se vi dico speleologia e speleologi, io penso che moltissimi di voi sappiano che mi riferisco alla scienza che studia le grotte, gli anfratti profondi dei primi 2 chilometri del nostro pianeta, no? Questa è la speleologia e chi la studia sono appunto gli speleologi. Ma siete circondati da caverne e da speleologi? No. Credo proprio di no. Se vi dico controllo automatico, ecco, secondo me non vi viene in mente niente. Eppure anche in questo momento, questo qui esatto nel quale mi state ascoltando, io sono certo che moltissimi di voi sono circondati da controlli automatici. Il controllo automatico è una scienza. Molti di quelli che la pratica tendono a dire che è una disciplina più che una scienza. Ecco, perché ci sono decine di migliaia di ricercatori e ricercatrici che studiano il controllo automatico. Alcuni di loro, 2.800, non pochi, si sono riuniti a Milano la scorsa settimana per il 18° congresso mondiale della Federazione Internazionale del Controllo Automatico. Va bene, però torniamo al sodo. Quanti di voi sono su un'auto in questo momento? Tanti. E avete un sistema ABS? Certo che sì. Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, dove dirige il centro MOVE, qui al MOVE si studiano controlli automatici per i veicoli, ci spiega l'ABS. Ma innanzitutto, per capire l'ABS bisognerebbe capire dov'è il problema di controllo. L'ABS risolve un problema abbastanza strano e forse non noto a tutti. Il problema è essenzialmente questo: quando noi guidiamo e freniamo in modo dolce, stiamo usando un sistema cosiddetto stabile, cioè noi schiacciamo un po' il pedale del freno e il veicolo reagisce stabilmente assestandosi su un certo livello di frenata. Qualcuno avrà avuto l'esperienza poco felice di fare una frenata oltre questo limite di stabilità, soprattutto quando la superficie, ad esempio, è bagnata o scivolosa. A questo punto, se noi schiacciamo troppo il pedale del freno, il sistema entra in una zona cosiddetta instabile in cui il sistema scivola verso il bloccaggio delle ruote. Quindi il sistema veicolo è fatto da due zone di funzionamento, una stabile e una instabile. E purtroppo l'ironia è che il punto di miglior funzionamento della frenata è proprio sul bordo di queste due zone. Quindi noi in teoria, se volessimo fare la frenata perfetta, dovremmo stare proprio sul bordo di questa zona buona in cui il comportamento è stabile, questa zona cattiva in cui il comportamento è instabile. Interessante questo fatto, no? L'ABS ci rende tutti grandi piloti, ma cosa accadrebbe se avessimo l'auto priva di ABS e con le ruote bloccate? Ancora Savaresi. Con le ruote bloccate la macchina non è più in grado di essere governata, nel senso che io posso girare il volante, ma il volante non reagisce più, quindi diciamo perdo completamente la stabilità. Quindi l'ABS è sostanzialmente un cervello elettronico che è in grado di farci lavorare su questo bordo magico fra queste due zone senza essere un pilota professionista. Quindi quando vede che scivoliamo nella zona di instabilità, riprende il veicolo e ci fa, diciamo, ballare attorno a queste due zone, dandoci una frenata performante con, diciamo, garantendoci al contempo la giusta stabilità. Dunque, qualunque dispositivo elettronico, meccanico, software che mette insieme tutto, qualunque dispositivo interagisca con un ambiente circostante, lanciando e ricevendo segnali e analizzando questi segnali, con l'obiettivo di mantenere la situazione stabile per raggiungere un certo, appunto, obiettivo, per svolgere un certo compito, bene, questo è un dispositivo che usa i principi del controllo automatico. Il pilota automatico di un aereo, per esempio, ma anche il semplicissimo termostato di uno scaldabagno. Però non è nota questa realtà. Alberto Isidori, che è stato negli ultimi 3 anni presidente della Federazione Internazionale e che insegna alla Sapienza di Roma. Sentiamo. In realtà si trova di fatto nascosta, in quanto rappresenta una disciplina che studia le tecnologie per far funzionare un numero enorme di apparati, di processi industriali, però diciamo è nascosto in quanto non è percepito dal grande pubblico quelli che sono gli oggetti di questa disciplina. C'era un mio collega di Lund molto famoso che diceva: è più facile descrivere gli apparati che le idee. L'automatica è fatta di idee, l'idea fondamentale è quella di fare dei modelli matematici dei fenomeni che si vogliono controllare, come diciamo noi, e poi di sviluppare dei meccanismi, studiare dei meccanismi di retroazione per il controllo. Ma c'è qualcosa al di là delle applicazioni tantissime, specifiche, qualcosa che sta al centro del controllo automatico, un approccio unificante? Sergio Bittanti, del Politecnico di Milano, che è stato anche il direttore organizzativo, il chairman del Congresso di Milano. Credo che il termine unificante sia la metodologia di fondo, questo è il termine unificante, che è un po' diverso per discipline usuali, no? Perché non so, c'è l'ingegneria, la meccanica, poi c'è, non so, lo spaziale e così via. Quello dei controlli è una disciplina che ha varie foglie di applicazione e quello che unifica è il problema, diciamo, concettuale che c'è dietro, che è un problema molto rilevante. Però mi pare che alla base ci sia un forte uso di creazione di modelli matematici che oggi poi possono usufruire di una potenza di calcolo che una volta non c'era. Indubbiamente, cioè il modello matematico è il punto di partenza per moltissime applicazioni nostre, quindi quando uno ha da controllare un impianto, la prima cosa che spera di avere è il modello matematico dell'impianto. Con quel modello riesce a capire come agire sulle variabili di comando per ottenere certi effetti, però l'uso dello strumento software è sicuramente stato fondamentale. Poi come costruire questi modelli è un punto interrogativo, perché da un lato uno può farli partendo dalla conoscenza fisica, no? L'impianto c'è, non so, una reazione chimica, poi c'è una parte elettrica e così via, e per ognuno di questi descrive il suo modello con le leggi, tra virgolette, che noi conosciamo, no? Poi però c'erano tante incertezze, bisogna stimare i parametri e così via. Questo comunque è un approccio base. L'altro approccio invece è quello degli occhi chiusi, la scatola nera, cioè uno dice troppo complicato questo impianto, io non riesco a descriverlo matematicamente, allora misuro quello che succede alle variabili esterne e da queste serie temporali cerco di capire come è fatto il comportamento esterno tra le variabili causa e le variabili effetto senza necessariamente andare nella pancia dell'impianto. Strana questa cosa, no? Con il controllo automatico si può anche maneggiare cose molto complesse, delle scatole nelle quali avvengono appunto queste cose complesse, e però riusciamo a vedere cosa entra e cosa esce e una soluzione sul loro funzionamento la si trova senza necessariamente capire quello che c'è dentro la scatola. Come vedete, il controllo automatico si basa essenzialmente sull'avere un marchingegno che fa una prima cosa, vede com'è andata, se c'è da correggere allora lo fa e butta lì qualcos'altro, insomma prova e riprova. Nel gergale si chiama retroazione o feedback in inglese. Sentiamo ancora Alberto Isidori. Secondo me questo è il cuore della disciplina, questa idea di feedback, cioè l'idea di misurare certe grandezze di interesse e sulla base dell'esito di queste misure esercitare azioni di modifica. Quando io devo spiegarlo agli studenti il primo giorno di lezione, dico: voi applicate questo concetto di feedback tutte le mattine quando vi fate la doccia. Aprite l'acqua calda, sentite troppo calda, allora aprite un po' la fredda. Ecco, quindi sulla base della misura, cioè la sensazione della temperatura, uno fa una correzione. E questo, diciamo, è un livello abbastanza elementare perché serve per mantenere poi, per raggiungere uno stato di equilibrio costante. Questo stesso principio è quello che dicevamo prima per il pancreas artificiale, si misura il livello di insulina e si fa un'iniezione in conseguenza. Principi più evoluti sono quelli che, situazioni più evolute sono quelle in cui si usa questo principio in realtà per far evolvere nel tempo certe grandezze secondo leggi di interesse. Per esempio, se noi vogliamo inseguire una variabile che varia nel tempo, come inseguire la posizione di un aeroplano, attraverso un'antenna radar, questo dobbiamo farlo, diciamo, lo possiamo fare con un principio del feedback, però diciamo, la grandezza non sono più costanti, sono grandezze variabili nel tempo. Ecco, l'automatica, diciamo, la metodologia dell'automatica hanno studiato questo per 20 anni in tutti i possibili scenari di modelli sempre più complicati. Isidori faceva riferimento al pancreas artificiale. Nella prossima puntata vi parleremo ancora di controllo automatico e di applicazioni biomediche. Comunque è così. Abbiamo oggi, sono le prime sperimentazioni, dei piccoli dispositivi che tengono sotto controllo una persona diabetica somministrando insulina quando il suo corpo la richiede. Per questa puntata ci fermiamo qui con il controllo automatico. Nella prossima vi racconteremo altri esempi specifici in cui questa disciplina interviene, casi che sono stati presentati al Congresso Mondiale della Federazione del Controllo Automatico, come vi dicevo, organizzato a Milano. Congresso che ha pure visto la partecipazione più ampia in tutta la storia dei meeting precedenti, 2800. Un vero record. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Va bene Chiara, se arrivano delle verità scientifiche dobbiamo parlarne. Certo che attaccare il cacao, anzi il cioccolato... Sì, che tu sai bene che è uno dei miei ingredienti, uno dei preferiti. Miei cibi preferiti. Non ne posso fare a meno. Tuoi, credo che siano... C'è qualcuno che non piace effetti, il cioccolato? In effetti. Credo di no. Credo di no. Va bene, la notizia, dai, la notizia è... Sì, direi tragica, perché se io ti dico aroma di patatine fritte con un po' di pesca, un po' di carne cotta, un che po' di miele, un po' più, miele può andare, il cetriolo, se va bene, aroma di terriccio che, e infine, ecco, lo so, sudore umano. Allora, sembra la pozione di una strega, sì, malefica. Esatto, mancano le code di lucertola. E invece null'altro sono che gli aromi che alcuni ricercatori della Società Americana di Chimica, quindi neanche degli stregoni, Santo hanno cielo. Identificato e che appunto comporrebbero il tanto amato aroma di cioccolato. Ecco. E qui abbiamo un cioccolatologo. Qua abbiamo dovuto chiamare per forza l'esperto, che non è un esperto di nutrizione, ma bensì è un neuroscienziato, perché ci deve spiegare la percezione che noi abbiamo di questi aromi. È un ricercatore dell'Università di Trento e si chiama Massimiliano Zampini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Zampini. Ai vostri radioascoltatori. Sì, la notizia insomma è giunta pochi giorni fa ed è questa, cioè com'è possibile che noi abbiamo in mente il cioccolato e diciamo quella è una molecola, un odore di molecola di cioccolato e invece in realtà è un mix di tutt'altro. Tremendo. Per noi che ci occupiamo di percezione olfattiva, percezione più in generale, non è una sorpresa. Nel senso che la nostra capacità olfattiva è abbastanza limitata, la nostra capacità di discriminare gli odori non è così ricca, diciamo, e molto spesso gran parte degli odori che percepiamo sono costituiti da miscele di altri odori, dei quali però non riusciamo a discriminare le singole componenti. Quello che fa il nostro cervello è una sintesi. Però banalmente mi verrebbe da pensare, allora il cioccolato è composto da aroma di latte, aroma di zucchero e aroma di burro di cacao, non certo sudore umano e carne cotta. Ecco, per esempio, appunto, scusi. Invece è così. E invece pare proprio da questa ricerca essere così. Diciamo che per chi apprezza il cioccolato è proprio un vantaggio quello che la nostra capacità olfattiva sia limitata, non riesca a discriminare questi odori sgradevoli, diciamo, che fanno parte della componente. E quindi, come dire, questa capacità che abbiamo di sintetizzare e non di analizzare i singoli odori, in qualche maniera ci garantisce dal poter continuare ad apprezzare il cioccolato. Se posso, aprire una piccola parentesi, diciamo che qui il problema non è tanto di capacità dei nostri recettori, ma il problema è la capacità di denominare i singoli odori. Quindi il nostro sistema olfattivo, la nostra capacità di discriminare gli odori molte volte è povera perché non riusciamo a dare un'etichetta. Sì. L'esperienza più comune è quella in cui spesso ci possiamo imbattere, cioè se sentiamo un odore diciamo ma questo l'ho già sentito ma non ricordo cos'è. Qui è proprio un problema di etichetta, trovare il nome giusto. Capacità di discriminazione, ecco, ma qui chiaramente c'è uno scontro anche proprio con l'immaginario, perché è talmente forte questa immagine che noi abbiamo sensoriale del cioccolato che ci aspetteremmo che il cioccolato facesse parte della tavola di Mendeleev, dopo il ferro, cioè il cioccolato, l'atomo un elemento di chimico di primario base, no? Che costituisce un elemento sostanziale dell'universo. Invece non è così e abbiamo tutti questi componenti. Invece in altri casi, non so, cito a caso l'ammoniaca, noi andiamo a vedere che percepiamo quel dato odore e invece c'è poi dietro una molecola specifica e non è un mix, no? Però la discriminazione non è possibile. Ma senta, questi mondi, no, che noi con la nostra sensorialità creiamo, e ce ne sono anche altri, vabbè, quello della luce è noto, no? Noi vediamo, il mondo potrebbe essere completamente di colori diversi se avessimo, ma ce ne sono anche altri che ci inventiamo, suoni, che ne so. Ma sì, diciamo che quando percepiamo gli stimoli sonori, come dire, non andiamo a percepire le singole componenti, ma sentiamo, mi viene in mente in una melodia, per esempio, non va a sentire le singole componenti, non va a discriminare le singole frequenze, ma sente un percetto unico. Sì. E quello che molte volte anche riusciamo ad inventarci è qualcosa, a volte ci inventiamo che qualcosa che non c'è. Seguendo il suo esempio della percezione visiva, molte volte riusciamo a vedere cose che non ci sono. Invito per esempio i vostri ascoltatori ad andare a vedere, se possono accedere ad internet, l'esempio dei triangoli di Kanitz. È un esempio che noi conosciamo come tipologia della percezione, noto, in cui si vedono solamente, vengono rappresentati solamente gli angoli del triangolo, solamente le parti, le sommità dei triangoli, i vertici, e non i lati che li congiungono, e quello che percepiamo in quel caso è un triangolo completo. Quindi sì, è un triangolo completo. Non le famose illusioni ottiche, insomma. Quindi è un esempio, se vogliamo, che si pone un po' all'opposto di quello di cui abbiamo parlato finora del cioccolato. Nel cioccolato ci sono più componenti, noi ne percepiamo solo una. Nel caso del triangolo di Kanitsa non c'è fisicamente, come dire, lo stimolo, ma noi lo percepiamo. Lo ricreiamo, completiamo la... Questo perché è una capacità che abbiamo, che ha il nostro cervello, di dare un senso alla realtà. Infatti la chiave di tutto è proprio la percezione. Che cosa succede nel nostro cervello? Che cosa succede, Zampini, quando noi mettiamo in bocca una barretta di cioccolato? Noi innanzitutto sentiamo il gusto con la bocca, poi arriva alle narici e poi lì si scatena... L'inventività per fortuna... più libera. Bene, innanzitutto, quando la domanda che spesso faccio e che mi capita quando, come dire, faccio presentazioni anche a persone a non addetti ai lavori, non esperti, è: secondo voi dov'è che percepite il sapore del cibo? La risposta più comune è nella bocca. E questa in realtà è già, come dire, una risposta, è un'illusione che abbiamo. Noi pensiamo che la percezione del sapore del cibo avvenga nella bocca, così per una barretta di cioccolato. Invece... In realtà, come diceva lei, nella gran parte, se facciamo una stima approssimativa, nell'80% avviene nel naso. Sì, certo. Ma come può accadere questo se noi, come educazione vuole, mastichiamo a bocca chiusa? Com'è possibile che le molecole raggiungano il naso? Beh, esiste una via che viene chiamata via retronasale, che è direttamente collegata con la cavità orale. Quando una barretta di cioccolato sta all'interno della nostra bocca, le molecole, finché mastichiamo e particolarmente quando deglutiamo, iniziano il loro percorso verso l'alto, verso il naso, e lì, attraverso questa via retronasale. Quindi quello che noi riusciamo a percepire sulla lingua, sulle papille gustative, è un'esperienza molto povera. Sentiamo se in una barretta di cioccolato, cioccolato fondente, per esempio, possiamo sentire la componente dolce e amara. È amara per esempio, i due tipi, certo. Ma al di là di queste due componenti non percepiamo altro. No, certo. Mi vengono in mente le vecchie favole in cui si raccontava dei bambini che dovevano prendere l'olio di ricino. Cosa si faceva? Ci si tappava il naso. E infatti, perfetto, tappandosi il naso si perde un'infinità di gusto. Semplicemente quando siamo raffreddati, che esperienza, qual è l'esperienza di mettersi a tavola quando siamo raffreddati? È assolutamente triste, nel senso che non riusciamo a cogliere gran parte dei profumi, anche di pietanze, come dire, molto interessanti, ma se siamo raffreddati non riusciamo ad apprezzarle. Certo. Solo che qui si apre uno scenario chiaro, cioè nel tartufo cosa ci sarà? Una roba meravigliosa come il tartufo che dovrebbe far Zampini, esiste la molecola di tartufo? Ma guardi, a questa domanda non posso rispondere perché non conosco la risposta, devo essere sincero, però quello che posso dirvi è che esiste, probabilmente mi aspetto che ci siano più componenti dentro il tartufo, anche come accade per il cioccolato, e qui, come dire, quello che il nostro sistema fa, il nostro sistema olfattivo fa, è che a livello di recettori, quindi ritornando a quello che si diceva prima, all'interno del naso ci sono dei recettori che colgono queste molecole vengono riconosciute tutte dai recettori, quindi a livello recettoriale si riconoscono tutte queste componenti. Il fatto è che poi i messaggi che dai recettori arrivano al cervello mettono in moto un meccanismo di sintesi, per cui tutte queste singole componenti, i 600 odori del cioccolato, vengono perse da questa sintesi. Certo. Che noi, questo meccanismo di sintesi, il nostro cervello impara a farlo attraverso l'esperienza. Noi sappiamo che quel determinato odore è l'odore profumo, userei in questo caso, è il profumo di cioccolato, questo ci chiedo, ma si potrebbe arrivare a sviluppare di più queste no, no, oddio, nel caso del cioccolato sarebbe un disastro. Di più di così direi che no, non no, sia il caso. È meglio fermarsi, però si potrebbe agire su queste... Guardi, ci sono quegli esperti nelle case di... Profumi, lei dice? Esatto, che vengono chiamati nasi, i nomi. È vero. E ci sono anche esperti conoscitori di vini. È vero. Sì. Esempio, certo. Riescono a cogliere componenti all'interno del vino che alla gran parte delle persone sfuggono. Sì, si un può po anche un po' improbabili, diciamo, qualche volta. Ecco. Questi non sono persone in realtà che hanno delle capacità a livello fisiologico strabilianti, non hanno un naso più sviluppato del nostro dal punto di vista fisiologico, semplicemente hanno fatto un allenamento. Sono abituati. No, esatto. Ma io avrei una domanda tecnica. Questi ricercatori della Società Americana di Chimica, come hanno fatto a trovare questi 600 componenti? Cioè, adesso il sudore a me viene un po' spontaneo chiedere com'è possibile che sia stato individuato. Hanno dei nasi elettronici particolarmente sofisticati? Esistono degli strumenti che vanno a separare le singole molecole e riescono a individuarle, determinarle facendo un vero e proprio screening di queste molecole, diciamo. Riescono a vedere come si distribuiscono all'interno di una soluzione, come viaggiano nell'aria, per esempio, qual è la loro velocità di dispersione. Quindi, per esempio, si può ricostruire nel naso quali sono le molecole che per prime raggiungono i nostri recettori, e quindi si fa una discriminazione molto fine, ma questo, dobbiamo tenere presente, è molto diverso da dire, ecco, così funziona il nostro riconoscimento degli odori. E loro lì nella ricerca dicono, queste ricerche sono importanti perché potremmo anche ottenere del cioccolato migliore, magari, che so, inserendo peli di tricheco, viene buonissimo. Comunque il tutto certo è fatto per migliorare la qualità. Va bene, grazie Zampini allora. Grazie a voi per avermi contattato e buon proseguimento di trasmissione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La domanda che ci è arrivata, Chiara, è? Sì, la domanda questa volta, questa settimana, la domanda impossibile, così l'abbiamo chiamata, ci è arrivata da un ascoltatore, Nuccio, che ci ha contattato tramite Facebook. Quindi ricordiamo agli ascoltatori che volessero comunicare con noi o mandarci le loro domande o suggerirci dei temi, possono farlo o con la nostra pagina. Sì, o con Facebook sulla pagina Moebius Scienza, ci cercate, molto semplice, oppure attraverso la mail mebius@radio24.it. Sentiamo la domanda. Una delle eterne discussioni tra amici è come mai le donne alzano sempre l'aria condizionata e abbassano, nel senso che la fanno meno forte, oppure alzano eccessivamente il riscaldamento a temperature tropicali d'inverno. E viene naturale una domanda: come mai sentono sempre più freddo degli uomini? Chiudo l'aria condizionata qua in studio? Ti dà fastidio? Ecco, ti vedo un po'. Ad esempio, sono un caso anomalo. Io ho sempre caldo. Ma adesso chiederemo appunto al nostro esperto che cosa significa. Io penso che non sia una roba vera, però. Infatti, comunque, adesso vediamo, una cosa molto soggettiva. E ci spiegherà tutto l'endocrinologo della Sapienza di Roma, che è già stato nostro ospite, il dottor Andrea Isidori. Buonasera. Buonasera Isidori. Ecco, ci spieghi queste anomalie soggettive di caldo, freddo, insomma. È vero o falso? Ma allora no, diciamo che ci sono elementi di verità e invece elementi, diciamo, di mito. Essenzialmente c'è un problema costituzionale, nel senso che le donne hanno un tegumento, cioè un'impalcatura cutanea leggermente più sottile di quella maschile, quindi il loro sistema di isolamento, diciamo, può essere appena meno efficiente, ma in realtà quello che interviene sicuramente sono gli ormoni. Io appunto sono endocrinologo e sappiamo che le donne hanno delle oscillazioni ormonali legate appunto al ciclo mestruale da un lato, ma anche poi alla menopausa successivamente, e questi ormoni sessuali, il progesterone da un lato, gli estrogeni dall'altro, possono modificare lo stato di dilatazione dei capillari, quindi dei vasi, e quindi regolare il meccanismo principale di termoregolazione. Questo è una delle cose note, perché le donne che hanno appunto problemi di infertilità fanno la misurazione della temperatura basale, no? Perché nel seconda di quali sono gli ormoni si modifica la temperatura e quindi si modifica anche il set point termico, che abbiamo detto è all'origine della sensazione del freddo. Ma senta, se ce ne sono meno si sente più freddo, se ce ne sono di più si sente più freddo, com'è? A seconda dell'ormone forse. Ma com'è? Dipende da qual è l'ormone. Allora, se ci sono appunto più progesterone, che è quello appunto che viene prodotto dopo l'ovulazione, appunto si ha un abbassamento della temperatura. Viceversa, quando si è in menopausa, in cui essenzialmente mancano gli ormoni estrogeni, si ha le cosiddette vampate di calore, quindi un problema di dilatazione, no? Sì. E quindi paradossalmente la stessa donna può in una fase della vita sentire più freddo e in un'altra, diciamo, avere più caldo, ecco questo. E poi un altro dato che è molto importante, che sono i principali regolatori del metabolismo basale, quindi della possibilità di produrre calore, sono gli ormoni tiroidei, che come sapete la patologia tiroidea interessa molto frequentemente il sesso femminile. Le donne, quindi sì. Alterazioni in eccesso o in difetto degli ormoni tiroidei provocano questo, cioè un eccesso di ormoni tiroidei provoca un aumento del calore, un'eccessiva sudorazione, invece un difetto di ormoni tiroidei, cioè l'ipotiroidismo che si ha nelle tiroiditi per esempio, provoca una sensazione di freddo, molto freddo, intolleranza al freddo si definisce. Quindi non dipende forse dal peso, dalla superficie corporea, che magari nelle donne solitamente è più ridotta rispetto a quella degli uomini. Le donne sono un po' più piccoline, tendenzialmente questo potrebbe avere una sua influenza? Sì, ecco, più che la superficie corporea, che certo è un elemento di scambio termico, è proprio lo spessore cutaneo, eventualmente, insomma, ecco, che è un pochettino più basso. Si può generalizzare forse dicendo che le donne allora sono un pochino più instabili a livello di temperatura, non fraintendetemi? Esatto, questa è proprio la definizione più corretta, cioè sono più vulnerabili, anche proprio per queste loro oscillazioni ormonali, al controllo, diciamo, della temperatura. Okay. Beh, ma allora qualcosa di vero c'era. Qualcosa di vero c'era. Infatti, ma il senso comune poi nasconde sempre qualche cosa di vero alla base, no? Va bene, grazie dottor Isidori. Alla prossima domanda impossibile. Arrivederci. Questa settimana, come ogni anno, sono stati annunciati i premi Balzan. Sono 4 premi che vengono assegnati a 4 personaggi importanti della cultura, delle scienze umane e delle cosiddette scienze esatte. Quest'anno vi do i nomi, per esempio, di Peter Brown dell'Università di Princeton, che è stato premiato per la storia antica, il mondo greco-romano in particolare. Poi abbiamo Bronislav Baczko, è un polacco dell'Università però di Ginevra, per i suoi studi sull'illuminismo. Russell Land degli Stati Uniti insegna però all'Imperial College di Londra in Gran Bretagna e lui è stato premiato per i suoi lavori in biologia teorica e bioinformatica. Infine Joseph Silk, inglese-americano che però insegna a Parigi, insegna ad Oxford e insegna anche all'Università di Baltimora, è un cosmologo ed è stato premiato per le sue ricerche sull'universo primordiale e quindi su ciò che è stata ed è ancora tutta l'evoluzione dell'universo. E essendo Joseph Silk un cosmologo, abbiamo ovviamente sentito Paola Rebusco, che è la nostra corrispondente negli Stati Uniti, ma è anche una ricercatrice nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica. Vi ricordo che il premio Balzan è un premio consistente dal punto di vista economico, sono 750.000 franchi svizzeri, cioè circa 670.000 euro. Va bene. Paola, ciao, benvenuta. Buonasera. Allora tu Paola hai intervistato, no, Joseph Silk? Sì, esatto, gli ho telefonato a Parigi perché passa molto tempo all'Institute Astrophysique di Parigi. Uno che ha fatto cose importanti negli ultimi... Chi studia cosmologia conosce il suo nome. Ok, quindi senti, lui è stato premiato per queste sue ricerche anche svolte in tanto tempo che hanno un po' a che vedere con la nascita e quindi tutta l'evoluzione dell'universo. Sì, ti leggo l'annuncio ufficiale, poi cerchiamo di capirlo. Allora, l'annuncio dice che è stato premiato per il lavoro pionieristico sulle prime fasi evoluzionistiche dell'universo, basato sullo studio degli effetti che processi e fenomeni fisici diversi, quali la materia oscura e la curvatura dello spazio, insomma gli effetti che questi fenomeni hanno avuto sulle fluttuazioni del fondo cosmico a microonde e sulla formazione di galassie di diverso tipo. Una motivazione che per certi versi è comprensibile, per altri va un po' smontata e chiarita. Tema molto vasto, però insomma è stato premiato per un'attività di ricerca direi molto estesa. Decisamente sì, ha molti interessi diversi. Va bene, vogliamo provare a entrare un po' in che cosa ti ha detto, insomma, entrando un po' negli aspetti più interni, insomma, di questa sua attività. Allora, quando parliamo delle prime fasi dell'universo, iniziamo dal Big Bang, da questa violenta esplosione da cui tutto l'universo è nato. Dopodiché l'universo ha continuato a espandersi e una delle grandi domande della cosmologia moderna è come mai che questo universo, all'inizio era un misto di materia e radiazione uniforme che semplicemente continuava ad espandersi, come mai ha iniziato ad agglomerarsi e a formare, diciamo, degli agglomerati di galassie, di anche singoli pianeti o stelle, tu dici? Sì, inizialmente stelle, pianeti, galassie e così via, delle strutture di materia sempre più grande. Cioè, tu dici, possiamo pensare a un impatto della torta con dei grumi, perché si sono formati i grumi in questo impatto. Perché poteva restare una grande esplosione che si dilatava. Invece la domanda è perché si è concentrata in varie strutture di più o meno grandi dimensioni. Esatto. E quello che possiamo pensare in questo processo, ci sono due effetti contrastanti. Da un lato c'è la forza di gravità che tende in effetti a costruire, diciamo, dei grumi o qualcosa di più denso. Dall'altro c'è l'universo che continua a espandersi e tende a separare la materia. E lui ha ricevuto questo riconoscimento proprio per aver analizzato questo aspetto, questo problema. Mi ha detto che ha iniziato a fare ricerca in questo campo durante il suo dottorato e non solo ha sviluppato un modello teorico, ma ha anche suggerito alla comunità scientifica una possibile verifica osservativa, che poi è stata effettivamente osservata. Verifica osservativa vuol dire che dice che cosa bisogna andare a vedere, a misurare per verificare se quello che lui ha detto è giusto. Esatto. Un altro dei suoi interessi di ricerca è l'interazione tra le galassie e i buchi neri supermassivi che si trovano all'interno di queste galassie. Ho chiesto qual è il quesito che lo tiene sveglio di notte e mi ha detto quello dell'uovo e della gallina, ovvero si è formato prima un buco nero o la galassia. Perché possiamo pensare che si è formato un buco nero, allora c'era abbastanza materia, è iniziato a tirare la materia circostante e si è formata una galassia. Però è possibile che sia accaduto l'opposto, si è formata una galassia e poi ci fosse abbastanza materia per formare un buco nero. Scusa, d'occhio e croce, questo vuol dire che se si è formato prima il buco nero che attira materia e forma una galassia, in linea di massima vuol dire che tutta la galassia prima o poi finirà dentro il buco nero? Non è detto, magari. No, non è detto. Anche parliamo di buchi neri molto grandi al centro delle galassie. E questi buchi neri si intrappolano del gas, delle stelle, però sono come degli aspirapolvere che si tirano dentro tutto. Sì. Un po' di roba vicino, no. Tanta se la mangiano, ma non necessariamente tutta la galassia. Va bene. Esatto, siamo salvi. Perché ce n'è uno anche al centro della nostra galassia. Sì. Oh, dunque, in conclusione, io prima parlavo appunto della destinazione dei fondi del premio. Il premio Balzan prevede proprio che chi lo riceva destini una quota precisa, la metà, no? Se non sbaglio. Sì, metà del premio è da destinare a progetti svolti da giovani ricercatori. E adesso aspettiamo di vedere cosa si fa con Silk. Gli ho chiesto, ma mi ha detto che è troppo presto, l'abbiamo colto di sorpresa. Quindi deve ancora decidere a cosa destinerà questa, la metà del premio. Ciao Paola, grazie. Andate al nostro sito www.moebiusonline.eu e da lì vi rimanderemo al blog che vi dice come produrre qualche miliardo di minuetti mozartiani con relativi trio. Lo so, in questa puntata forse vi abbiamo rovinato il piacere del cacao sul cappuccino, ma le verità scientifiche non possono essere sottaciute. Ci sentiamo la prossima settimana quando vi spiegheremo che i pomodori sono radioattivi. Ma no, scherzo, state tranquilli e tranquille. Buona settimana a tutti e a tutte.